Il vento di fuori scopriva lealtà, battendo più forte sulla tua realtà. Non c'era risposta, se a urlare era il cuore, gridando più forte sul lato interiore. E sai che il perché della pioggia non c'è, sai che il perché della pioggia non c'è. Urlava e strideva sulla mediocrità e piano piangeva la sua verità. E a volte chiedeva soltanto il perché, ma poi ascoltava e capiva che. E sai che il perché della pioggia non c'è, sai che il perché della pioggia non c'è. Sai che il perché della pioggia non c'è, sai che il perché della pioggia non c'è, sai che il perché della pioggia non c'è, sai che il perché della pioggia non c'è.